Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentornati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Borse sempre tese come corde di violino, rendimenti dei titoli di Stato ridotti al lumicino e conti di deposito che offrono anche sulla scia dell'andamento dei tassi di interesse e rendimenti sempre più magri. E per fortuna che, tornando tra l'altro ai titoli di Stato, le aste sono ancora ben frequentate, ma l'elevata domanda comporta appunto una inevitabile riduzione delle remunerazioni che possono essere garantite ai sottoscrittori. Che strada prendono i risparmiatori che oggi più che al rendimento danno la caccia alla sicurezza? È una tendenza che di cui stiamo parlando da mesi, affrontando inevitabilmente tutti gli aspetti della crisi finanziaria in corso e che adesso sta manifestando una direzione molto chiara, confermata anche dalle statistiche. Si stanno facendo sempre più largo le obbligazioni bancarie che tra febbraio e marzo hanno registrato una vera e propria impennata di sottoscrizioni, ma anche il settore delle obbligazioni societarie sta conoscendo una fase di discreta vitalità. Allora, chiedo oggi ai risparmiatori in ascolto: qual è la vostra idea di protezione del vostro investimento? Raccontatecela, che la faremo analizzare, la confronteremo con le opinioni e le idee di Carlo Mazzola, presidente di Norisk. Buongiorno. Presidente o amministratore delegato? Adesso presidente, mi viene il dubbio, infatti. E Matteo Petri, responsabile delle gestioni, della gestione dei portafogli private di BPM Gestioni. Dottor Petri, è con noi anche lei? Sì, buongiorno. Buongiorno e grazie di essere intervenuto a Salva Danaio. Ovviamente il numero verde per gli interventi degli ascoltatori è l'800240024, il numero per i messaggi è il 349-238-6666. Visto che questo è un tema che dobbiamo inevitabilmente commentare ed analizzare partendo da quello che succede sui mercati finanziari, vediamo un po' quello che succede questa mattina. Ci raccontava Narita D'Ambrosio nel corso del giornale radio di questa crescita ad aprile della fiducia di imprese e consumatori europei. Per la prima volta dal maggio del 2008 questo indicatore è tornato a crescere e probabilmente questo è oggi un po' il tema su cui punta il mercato azionario europeo, che torna a crescere dopo le ultime due giornate invece che non sono state molto brillanti a causa di tutta una serie di fattori, la febbre suina, ma anche le prime indiscrezioni che si hanno sullo stress test che l'amministrazione americana sta conducendo sulle banche americane. Allora, indicazioni che non erano ovviamente piaciute e le borse appunto ne hanno risentito negli ultimi giorni. Oggi invece si ritorna a crescere, abbiamo un rialzo di Parigi dell'1,42%, Francoforte cresce di un punto, Londra cresce dell'1,20%, S&P MIB a Piazza Affari più 1,42%, MIBTEL più 1,48%. I temi oggi su cui puntano gli investitori di Milano sono Buzzi Unicem più 6,64%, Lottomatica più 4,57%, Atlantia, la ex Autostrade più 4,50%. Qui abbiamo il giudizio positivo dell'agenzia Standard & Poor's, che ha ridotto il rating, il giudizio appunto sulla ex Autostrade, ha però rimosso il cosiddetto credit watch negativo nei confronti del gruppo. Italcementi più 3,37%, A2A più 3, Prismian più 2,81%, Tenaris più 2,71%, con un rialzo di 2,5%. Abbiamo anche Mediobanca, Mediolanum, Fiat più 2, che stamattina aveva agganciato gli 8 euro, anche adesso ritrova questo livello di prezzo. Ormai siamo ad un passo dalla conclusione delle trattative sul versante americano con Chrysler. Perde 2,5% invece il gruppo Campari, Snam Rete Gas meno 1,42, anzi meno 1,58 adesso, Monte dei Paschi meno 0,4, ci sono solamente questi tre titoli negativi in questo momento sull'S&P MIB 40 a Milano. Riprende a correre l'euro sul dollaro, siamo a 1,3230, questo è il rapporto di cambio in questo momento, il petrolio sui 49 dollari al barile. Oggi abbiamo molte trimestrali, come abbiamo già anticipato nel giornale radio, abbiamo i dati di Shell per quello che riguarda il petrolio, i dati di Santander nel settore bancario in Spagna, gli utili sono diminuiti di circa il 5%, ma sembrano dati migliori delle attese e insomma quindi il mercato che continua ovviamente anche a monitorare lo stato di salute delle aziende. Lo monitoreremo anche noi questa mattina, a giudicare dalle emissioni obbligazionarie che stanno effettuando in questo momento. 800240024, vi ricordo il numero verde per intervenire questa mattina e per parlare anche dei nostri risparmi e dei nostri investimenti che cercano sempre più protezione. Con i rendimenti dei titoli di Stato ai minimi storici e nessun segnale di un'imminente stabilizzazione dei mercati azionari, affossati in questi giorni dall'allarme influenza suina, gli investitori si guardano intorno in cerca di soluzioni alternative. E le banche di certo non stanno ferme ad aspettare. Si amplia così l'offerta di strumenti più remunerativi per diversificare i portafogli. Tra questi sembrano prendere piede le obbligazioni societarie, i cosiddetti corporate bond, in particolare quelli bancari, la cui sottoscrizione, secondo l'ultimo report mensile dell'ABI, è cresciuta a marzo del 20,5%. Ma in un momento come questo, in cui la percezione del rischio legato all'insolvenza delle imprese è sotto gli occhi di tutti, bisogna prestare particolare attenzione anche a questo tipo di strumento, il cui rendimento, spesso piuttosto elevato, è direttamente proporzionale al rischio. Oggi più che mai, infatti, il contesto richiede un attento monitoraggio dei vari segmenti di mercato e degli emittenti. I consigli da seguire sono, come sempre, quelli di diversificare, puntare su emittenti con rating elevati e su settori considerati più difensivi di altri, quali utility, industriali e TLC. Un'altra formula interessante per i risparmiatori con scarsa propensione al rischio è rappresentata dai conti di deposito. Certo, al momento non hanno più l'appeal dei mesi scorsi, quando, complici i tassi elevati, contavano su rendimenti intorno al 5%, ma perlomeno continuano a battere l'inflazione, tutelando le somme parcheggiate, anche se a loro sfavore gioca il vincolo temporale di investimento. Breve orizzonte temporale e aliquota fiscale ridotta sono invece i tratti distintivi di un altro strumento in cima alle preferenze delle famiglie italiane, i pronti controtermine, i cui rendimenti, in base alla scadenza, oscillano tra l'1 e il 3%. Le scelte dunque non mancano, ma il dilemma che si pongono da mesi i risparmiatori sembra essere sempre lo stesso: rendimenti elevati o ricerca della maggiore protezione possibile. Allora, io pensavo che la risposta in un periodo come questo fosse abbastanza naturale, anche sulla base di quello che stiamo vedendo, la ricerca della massima protezione possibile. Vedo invece dalle domande che ci stanno cominciando ad arrivare dai nostri ascoltatori che forse qualcosa sta cambiando, forse qualcuno ha intenzione di cominciare a riposizionarsi sul mercato in maniera un po' più aggressiva, e allora magari, che ne so, questa trasmissione stamattina dovrà prendere una direzione diversa. Non lo so, lo scopriremo strada facendo. Intanto chiedo però, sul tema che avrei scelto di analizzare oggi, un commento ai nostri ospiti. Carlo Mazzola, presidente di Norisk, come si manifesta, secondo il vostro, mi passi il termine, laboratorio di analisi e consulenza finanziaria, la ricerca della protezione in questo momento? Ma la ricerca della protezione sostanzialmente si attiva quasi non investendo, oppure investendo proprio in titoli di Stato. Cioè, il comportamento di attesa da parte degli investitori che hanno purtroppo perso molto negli ultimi 2 anni sui mercati azionari si manifesta come un guardarsi intorno, vedere cosa succede nell'attesa sempre di rientrare sui mercati azionari con un po' di paura. Questo è quello che vediamo. Allora, quello che noi consigliamo, anche alla luce poi di quello che vedevamo dalle domande, i mercati azionari magari potrebbe essere un momento ottimo per avvicinarsi adesso in modo graduale, perché quando noi andiamo a vedere un titolo di Stato, il BTP, che a 10 anni rende il 4%, ci dà anche un po' l'idea che il punto di partenza sia molto basso, cioè adesso si guadagna poco, quindi chi vuole attendere fa benissimo, non saranno 3 mesi o 6 mesi che cambieranno le cose, però bisogna avere in mente che i guadagni saranno molto contenuti. Noi sconsigliamo adesso, e questo forse è il messaggio chiaro che vogliamo dare, di fare investimenti in obbligazioni con scadenza molto lunga, perché questo potrebbe essere il rischio. Dopo la grossa crollo delle borse potrebbe succedere magari tra 1 o 2 anni un aumento dei tassi di interesse, un aumento dell'inflazione potrebbe portare a che cosa? Una diminuzione dei valori delle obbligazioni, perché quando le obbligazioni rendono poco sono anche più rischiose. E non ci crederà mai, ma in realtà sentendolo prima della trasmissione anche Matteo Petri di BPM Gestione mi aveva espresso la medesima convinzione. Petri, ribongiorno anche a lei. Buongiorno, e mi associo abbastanza a quello che ha detto il dottor Mazzola, nel senso che in questo momento c'è sicuramente una maggiore serenità sui mercati e per quanto riguarda anche i risparmiatori, questo lo tocchiamo con mano anche noi nei nostri colloqui giornalieri, e quindi oggi è più facile affrontare dei discorsi come l'investimento azionario o il tema di oggi, l'investimento magari in corporate bond con una scadenza comunque molto ben definita, non troppo lunga, e su emittenti che siano sicuramente affidabili, che questo è l'altro aspetto molto importante da sottolineare. Infatti, emittenti affidabili, peraltro parlando di emittenti affidabili dal punto di vista governativo, ricordiamo anche quanto, l'abbiamo fatto tante volte, si sono indebitati i governi negli ultimi mesi per poter affrontare la crisi economica e finanziaria. L'indebitamento pubblico è stata la scelta inevitabile per gli stati, che hanno dovuto nazionalizzare le banche, hanno dovuto sostenere appunto le l'industria in difficoltà, e questo comporta anche la ricerca ovviamente di sostegno da parte degli investitori per poter continuare a garantire la questione del debito. Stavo facendo questo ragionamento anche un po' contorto, perché stavo ragionando sul fatto che comunque in questi giorni, nonostante la precarietà delle condizioni finanziarie degli stati, le aste sono comunque ancora molto frequentate. C'era stato un po' di timore qualche settimana fa, per esempio è successo in un'asta inglese che andasse più o meno deserta. In Italia, per fortuna, ancora Mazzola, non sta succedendo? No, c'è la fila, anzi se uno guarda i valori sostanzialmente degli importi domandati per i titoli in asta sono molto elevati. Ma perché? Perché giustamente, non volendo rischiare, uno si posiziona dove? In un lido sicuro. Allora, pur con tutti i limiti, tutte le considerazioni che si possono fare sulla solvibilità degli stati sovrani, ad oggi gli stati sovrani dei paesi sviluppati non hanno mai dato nessun tipo di problema, questo andando a una memoria storica di parecchi anni. Quindi uno investe dove è più tranquillo, ma io penso che la stessa fotografia si veda anche sul mercato azionario. Gli investitori sono più tranquilli adesso rispetto a un paio di mesi fa, e rispetto a un paio di mesi fa, se vogliamo fare proprio un'analisi nuda e cruda dei numeri economici, le previsioni macroeconomiche confermano il forte rallentamento dell'economia globale. Lo scenario è vero, si parla di una ripresa nel 2010, però i mercati azionari sono saliti di un 20-30% e le scelte degli investitori di solito si basano in quello che è successo negli ultimi 3-4 mesi, cioè la gente è più tranquilla a comprare azioni adesso che sono più care di 2-3 mesi fa, quando effettivamente non le voleva nessuno, ma da allora i mercati sono già saliti di un 20-30% di oltre un 30%. Quindi quello che noi vogliamo dire è di non farsi prendere dal facile ottimismo e di iniziare adesso probabilmente un investimento sistematico. Sui titoli governativi abbiamo visto che effettivamente la domanda è molto elevata, però i rendimenti sono abbastanza bassi. Mi permetterei soltanto di dire che forse, volendo restare su scadenze abbastanza elevate e rimanendo sempre all'interno del nostro paese, tutti i titoli legati all'inflazione sono dei titoli che offrono una buona remunerazione. Lo Stato è affidabile, lo Stato italiano, quindi è come comprare un BTP, ma almeno si compra una sorta di protezione su uno scenario futuro che potrebbe magari dimostrarsi tra 3-4 anni un incremento dei prezzi. Un incremento dei prezzi che dovrebbe essere teoricamente inevitabile, data tutta la liquidità che c'è in circolazione, che è stata immessa dalle banche centrali, e anche questo un altro aspetto legato agli indebitamenti che abbiamo citato prima dei governi. Liquidità che dovrà essere riassorbita, e il riassorbimento della liquidità avviene solamente con lo strumento dell'inflazione, poi tassi di interesse eccetera. Quindi, detto questo, concretizzando ulteriormente il nostro discorso, Matteo, Petri, che cosa può mettere in portafoglio, in un portafoglio ad alta protezione, un investitore a cui un bot in questo momento arriva a scadenza, secondo lei? Lo deve rinnovare, aspettare ancora un pochino, cominciare ad allungarle queste scadenze, ma non più di tanto, a giudicare anche dal giudizio che avete dato prima sulle obbligazioni appunto a scadenze piuttosto lunghe, governative ovviamente. Poi cominciamo ad affrontare anche il ramo bancario e societario. Ma il discorso è questo: i bot in questo momento oggettivamente rendono molto molto poco, parliamo di un rendimento intorno a un 1,20% sulla scadenza a un anno, quindi sono rendimenti molto bassi. Basta allungarsi di un paio d'anni, quindi arrivare a dei BTP con scadenza 2 o 3 anni e già otteniamo dei rendimenti che sono decisamente superiori. A 3 anni in questo momento un BTP rende un 2,5 punti percentuali. Sono scadenze che mettono comunque al riparo da un rischio di rialzo tassi, perché se pensiamo che la ripresa arriverà soltanto nel 2010, comunque un rialzo dei tassi non è imminente in questo momento, e quindi avere un investimento in titoli di Stato a 3 anni comunque un orizzonte temporale tranquillo e che non mi crea dei problemi in termini perdite in conto capitale su un eventuale rialzo dei tassi. Tra l'altro, andando un po' ad analizzare gli strumenti che teoricamente dovrebbero garantire una sorta di protezione, c'è un ascoltatore che ci chiede allora perché non puntare sul pronto controtermine, di cui non abbiamo parlato nel corso della nostra scheda. Può essere paragonato come uno strumento che protegge i propri investimenti, il pronto controtermine? Questa è liquidità, in realtà lo stato puro, sì, Carlo Mazzola. Più, è poco più di liquidità sul conto corrente, è un po' più remunerata perché è un investimento leggermente più rischioso, è un investimento che purtroppo non si riesce a smontare a metà strada di solito, esatto. Si fa un po' di fatica o ha dei costi. Torniamo al discorso che facevamo prima: se un investimento a 2 anni di un governativo italiano rende il 2% scarso, non puoi pensare con un pronti controtermine di guadagnare molto molto di più, calcoliamo che il 2% su base annua vuol dire lo 0,5 sui tre mesi, mm-hmm. perché ragioniamo anche poi in euro veri di quanto poi effettivamente è l'investimento. Adesso l'investimento in liquidità è un investimento in cui uno cerca di recuperare l'inflazione, poco più, e le spese bancarie, è proprio un investimento di attesa. Comunque il pronti contro termine è sicuramente una strada da percorrere, ovviamente non vale la pena di farlo tutto nei confronti della stessa banca o investire tutto in pronti contro termine. Come per tutti gli strumenti di investimento, sì. insomma anche qui vale la pena fare una selezione e diversificare. Questo vale sempre, questo vale sempre su tutti gli strumenti, vale la considerazione che quando vuoi prendere dei rendimenti un pochettino più elevati dovresti andare a comprare quello che gli altri vendono. Cioè, questo poi è l'insegnamento, che è sempre facile dirlo dopo, però adesso ci troviamo in un mondo in cui i mercati azionari hanno corretto il 60% dai massimi e quindi... No, stavo ridendo perché la mia collaboratrice mi ha segnalato, guarda che nella scheda si parlava di pronti contro termine, evidentemente mi l'ho anche letta attentamente come faccio sempre adesso in questo momento, mi sfuggiva, mi scuso con Gaia Romani. Allora andiamo un po' subito ai nostri amici che ci seguono da casa, ai nostri ascoltatori, anzi cominciamo con un'ascoltatrice, Paola da Torino, che ci dà l'opportunità di cominciare ad affrontare il terreno delle obbligazioni bancarie, le cui sottoscrizioni stanno crescendo moltissimo. Come mai? Cosa c'è dietro a tutto questo? Paola, benvenuta. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Io volevo parlare della sicurezza di queste obbligazioni bancarie. Sì. A me le hanno sempre offerte e io le ho sempre rifiutate, perché se uno legge tutte, ad esempio l'ultima sono 16 pagine di descrizione, eccetera, vediamo che non sono assistite da garanzia, non hanno non le danno il rating, non sono ammesse al MOT. Mm-hmm. E allora non... Allora lei dice perché le devo comprare, perché insistono soprattutto. L'alternativa ai titoli di Stato, uno cosa fa? No, infatti, no, tra l'altro Paola, lei molto stoicamente resiste, perché è molto difficile anche ad avere un contraddittorio con l'operatore di banca che te la vuole piazzare a tutti i costi. Uno va lì, chiede un titolo di Stato e comunque c'è sempre, si deve sempre ingaggiare un conflitto con il bancario che dice ma guardi, noi ti diamo questo perché rende un po' di più. Lei comunque ha resistito fino a questo momento. E tra l'altro se invece... c'è un buon titolo con una buona resa e tutto quanto, uno dice sì, va bene, questa volta mi butto, lo prendo, ah no, fino a un altro anno, il primo anno non si può vendere a privati. Mm. E quindi finisce che il prezzo aumenta, va a finire alle stelle e quando uno lo vuole comprare non può più comprarlo. Benissimo, quindi Paola, lei che cosa fa per proteggere il suo denaro, il suo risparmio? Allora preferisco andare verso i titoli di Stato. Continua quindi sulla sua strada. Sì. La ringrazio. Carlo Mazzola, volevo ritornare con lei sulle obbligazioni bancarie. Tra l'altro abbiamo visto questa proliferazione sul mercato, inevitabile data la crisi finanziaria. In questo momento le banche per fare raccolta non hanno nessun'altra alternativa. Però fatto sta, la contestano tutti, ma comunque un grande successo. Beh sì, allora da una parte volevo fare i complimenti alla signora che ha letto 16 pagine di prospetto, perché di solito, guardi, no, noi le leggiamo per lavoro, ma di solito non lo fa quasi nessuno e quindi forse anche per questo riesce a vincere quali sono caratteristiche e difetti di questo tipo di obbligazioni. Beh, il punto centrale è che quando i tassi erano molto più elevati alla fine dell'anno scorso era facile offrire tipi di rimunerazione elevate anche sul conto corrente. Adesso io credo che le banche, da una parte per la necessità di garantirsi nuovo capitale da parte degli investitori, e dall'altro perché sanno anche dov'è la liquidità, cioè sostanzialmente una banca sa se c'è della liquidità depositata sui conti correnti dei clienti e quindi è in grado proprio di segmentare e offrire questo tipo di strumenti. Ricordiamo che le obbligazioni, allora, dal punto di vista della garanzia, le obbligazioni non sono garantite, adesso a parte casi particolari, sono degli strumenti emessi da una banca, quindi possa essere Unicredit, Banca Intesa, qualsiasi banca, qualsiasi primaria banca, quindi uno ha il rischio che la banca non rimborsi. Mm-hmm. Il vero punto che diceva la signora è forse il punto della liquidità, nel senso che sono comunque strumenti meno liquidi, perché non sono spesso trattati sui mercati aspetto regolamentati. Aspetto sul quale è acceso un faro anche la Consob, no? Ecco. Insomma, allora è vero che dall'obbligazione tu puoi pensare di portarla fino a scadenza, ma caspita, ti può anche succedere di doverla vendere, e questa è una cosa che può succedere, e se tu hai come unica controparte la tua banca, sicuramente spunti delle condizioni peggiori, sei davanti a tutto il mercato. È un po' come la teoria, dice, se uno dovesse vendere la macchina, non la vende solo al vicino di casa, mm-hmm. ma magari mette un annuncio su un giornale specializzato, certo. o su internet. E poi l'altro nodo, come diceva la signora, è il punto della remunerazione, cioè molto spesso queste obbligazioni, proprio perché sono vendute magari a dei clienti che non leggono i 16 pagine di prospetto, non ti offrono le condizioni che potrebbe spuntare un investitore istituzionale, mentre se uno compra un BTP lo compra come se fosse un grande investitore istituzionale, quindi è un po' come fare un passo avanti. Una garanzia vale per tutti, sì. Certo, una condizione vale per tutti, ovvio. Questa secondo me è la vera realtà. Poi probabilmente in termini di sacrificio dal punto di vista dei rendimenti si parla di mezzo punto, un punto all'anno, allora può essere tanto, può essere poco, poi insomma periodi in cui comunque sono soldi che uno si tiene in tasca. Infatti. Siamo ritornati in diretta con Salva Danaio questa mattina, vedo che tutto sommato abbiamo proprio colto l'interesse dei nostri risparmiatori. Ci sono molti che ci stanno raccontando che hanno a questo punto una somma da investire, ma non sanno davvero che strada prendere, perché la decisione riguarda delle inevitabili alternative. Cominciamo a rischiare qualcosa ritornando sul mercato azionario, continuiamo a proteggere in maniera quasi ossessiva il nostro risparmio. Credo che le due strade siano assolutamente, peraltro, conciliabili, devono assolutamente trovarsi, devono conciliarsi. E allora da questo stiamo ragionando con Carlo Mazzola, presidente di No Risk, e Matteo Petri, responsabile gestione portafogli private di BPM Gestioni. Petri, come le avevo promesso, c'è una domanda per lei di Roberto da Bologna. Roberto, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Ah, io dissento un attimo da quello che dicono i vostri analisti, sì, riguardo le obbligazioni, cioè i titoli di Stato, i trentennali, i BTP trentennali o quindicennali. Secondo me, se uno fa un'attenta analisi, si può benissimo uscire prima di quando calano, quindi uno le monitorizza bene. Secondo me adesso si possono acquistare benissimo, perché con i tassi l'1,25 sono estremamente appetibili. Mm-hmm. Ovviamente quando crescono quel 4-5%, uno li vende e ha già risolto il problema. No, però lei ha detto una parola molto importante, Roberto. L'importante è sapere anche monitorarli, no, questi strumenti di investimento. Matteo, Petri, cosa ne pensa? Magari attenda, Roberto, la faccio interagire con i nostri ospiti. Petri. Sì, esattamente la parola chiave è monitorare, cioè nessuno mette in discussione che in questo momento un investimento a 20 e 30 anni ha dei rendimenti che sono decisamente interessanti e superiori agli investimenti a breve. Il problema riguarda semplicemente il non rimanere invischiati in un titolo che poi perde di valore e nel momento in cui io magari sono obbligato a venderlo perché devo far fronte a un altro fabbisogno. Ecco, no, tra l'altro perché proprio magari per sua natura lo strumento obbligazionario governativo è uno strumento che viene scelto proprio perché si ha la percezione di accantonare il denaro e non guardarlo più, per cui queste poi fluttuazioni dei prezzi che Roberto indicava, che magari in certe fasi possono essere colte come un'opportunità di mercato, non vengono colte appunto nel momento giusto, Petri. Esattamente, queste sono in genere sono le tipologie di operazioni che fanno gli investitori molto attenti. La stragrande maggioranza invece degli investitori sono più nell'ottica di un cassettista, quindi comprano un'obbligazione per portarsela a scadenza e quindi nel momento in cui poi devono far fronte a un evento improvviso si trovano magari a dover far fronte o comunque a confrontarsi con delle situazioni di mercato che si sono modificate, per cui nel momento in cui uno investe deve anche avere più o meno un'idea di quello che poi si aspetta sia dal suo investimento che dalla durata temporale dello stesso. Allora, sentirei anche Roberto da Venezia, perché lo stesso ci contesta una cosa che abbiamo detto questa mattina. Roberto, beh, stamattina insomma ce l'abbiamo per tutti. Benvenuto. Pronto? Roberto, sì, siamo con lei. Buongiorno, signora Debora. Complimenti sempre. Grazie. Vi ho ascoltato, non ho potuto ascoltare dall'inizio, però ho sentito un'affermazione sul corporate bond e sulle obbligazioni bancarie, cioè che c'è della difficoltà di venderli nel mercato NOT in caso abbia necessità prima della scadenza. Uh-huh. Mi sembra che chi partecipi alla trasmissione, ma del modo esiste in Italia un mercato che è l'Euro TLX e TLX di Unicredit, Banca Intesa, sì. Anche di Banca Intesa e di Unicredit, che funziona ancora meglio del NOT e dell'Euro NOT, anche più lungo fino alle 18, mentre l'altro finisce un po' prima. Ecco, e inoltre il discorso, se uno deve investire e ha un buon consulente o dipendente di banca, continuamente può comprare i 30 triennali e non so, i BTP del 39 oppure obbligazioni corporate con tripla A con scadenza. Sì, Roberto. Perché dopo si tratta solamente di uscire quando c'è il cambio di vento. Io sono uscito Roberto, però no, io la percezione l'altro anno. Non la sentiamo molto bene, tra l'altro. No, io non metto assolutamente in dubbio quello che lei ci sta dicendo, e che però tante altre volte facendo trasmissioni simili a questa abbiamo invece una percezione di qualcosa che accade di perfettamente contrario, cioè che si acquisisce uno strumento di investimento che invece non ha la stessa capacità e facilità di essere ripiazzato sul mercato nel momento in cui lo vogliamo riscattare. Allora, Mazzola, ci parlava il nostro ascoltatore di circuiti alternativi in cui poter effettuare la compravendita di strumenti di investimento citati, quindi nella fattispecie obbligazioni bancarie, obbligazioni societarie. Non sono, allora, per ricollegarsi a quello che ha detto l'ascoltatore, non abbiamo detto che sono inalienabili, sono alienabili con maggiore difficoltà e quindi un po' un concetto relativo, magari può essere sacrificato di mezzo punto rispetto a uno 0,25 a uno 0,10. L'euro TLX sono sostanzialmente sono sistemi di contrattazione paralleli al MOT, alcune obbligazioni sono quotate al MOT, MOT è come parlare di borsa italiana. Quello che stiamo dicendo è che lo strumento più liquido, più ampio, cioè un'emissione da 4 miliardi di euro è sicuramente più facilmente liquidabile, se stiamo parlando dei 20 mila euro del singolo investitore, rispetto a un'obbligazione da 20 milioni di euro che magari non è trattata sul mercato pubblico ma è soltanto ricomprata dalla banca. Quindi non vuol dire che uno non possa venderla, però la vendita potrebbe comportare un sacrificio. Allora cosa succede? Che molto spesso al posto di vendere il bond bancario uno disinveste da un'altra parte. Questo per essere sostanzialmente chiari sulla tipologia di mercato. Mentre sulla strategia degli investimenti a lungo termine, sicuramente l'essere attenti premia nella strategia di investimento. Allora adesso gli investimenti a lungo termine sono molto remunerativi, l'inflazione non c'è, i prezzi non corrono, anzi sono sostanzialmente stimati in ribasso, forse stabili. Abbiamo il rischio contrario. Esatto, rischiamo un rischio di deflazione, quindi in apparenza un investimento a 30 anni al 5% sicuramente rende molto. Negli anni 60-70 era la stessa cosa, poi ci sono state, perché poi è vero che da oggi al domani si possono vendere, però per uno che magari va a fare la fotografia tra un paio d'anni scopre che la sua obbligazione da 100 vale 80. Quindi vogliamo, secondo me è importante separare tra l'investitore attivo che segue, che fa quasi, vogliamo dire, trading sulle obbligazioni, rispetto al cassettista che investe in modo sistematico. Forse ci siamo orientati sulla seconda parte. Infatti. Allora, continuiamo intanto a sentirvi all'800240024. Prima però di dare la parola a Giancarlo da Isernia, Matteo da Bologna e Giovanni da Firenze, volevo risentire anche Matteo Petri, perché abbiamo focalizzato l'attenzione sulle obbligazioni governative, quindi BOT, titoli di Stato, sulle obbligazioni bancarie, ma in termini generali invece le obbligazioni societarie, guardando un po' a quello che sta accadendo all'industria in questo momento su scala mondiale, insomma, stiamo vivendo una fase di contrazione economica molto molto forte, e se dovesse darci delle indicazioni su obbligazioni societarie in questo momento che possano darci nel futuro delle soddisfazioni. Ho letto che ovviamente ancora il parametro fondamentale per una ricerca di valide occasioni è il rating, quindi il massimo merito di credito. È così, e che settori le piacciono, Petri, in questo momento? Allora, il primo parametro di valutazione nell'ambito di una un'obbligazione corporate, quindi societaria, sicuramente il rating, che dà un'idea sintetica immediata di quello che può essere l'affidabilità dell'emittente. Comunque il rating, le recenti esperienze ci hanno dimostrato che non è esaustivo, perché comunque non possiamo porre tutta la nostra fiducia nell'ambito del rating, quindi dobbiamo comunque approcciare questo tipo di investimento con un minimo di cautela e cercando di avere ben chiare quali sono le caratteristiche della società in cui noi andiamo a investire. In questo contesto oggi possiamo dire che i titoli corporate più tranquilli sono quelli del settore utility, tipicamente le società energetiche, come che fondamentalmente non hanno dei grossi livelli di indebitamento e comunque continuano a dare una redditività sicuramente superiore ai titoli di Stato e molto interessante. Il settore industriale presenta invece situazioni variegate, perché logicamente parliamo anche di un settore che è molto grosso, che in alcuni comparti è stato colpito in misura pesante dalla crisi economica, per cui dobbiamo anche qui stare molto attenti sulla tipologia del comparto dell'emittente. Ecco, in generale quello che è un suggerimento che si può dare è questo: di stare molto attenti alle società che promettono dei rendimenti molto molto elevati. No, tra l'altro questo è... volevo proprio suffragarlo, sono contenta che sia arrivata ad analizzare, dottor Petri, questo aspetto, perché c'era lo rilevava un articolo del collega Maximilian Cellino su Plus 24 di sabato scorso. Moody's, una delle più grandi agenzie di rating, insieme a Fitch e Standard & Poor's, prevede entro la fine dell'anno un'accelerazione dei fallimenti societari fino al 15% dal 7% attuale. Questo immagino imponga una certa cautela anche nella ricerca delle obbligazioni societarie su cui investire. Secondo lei, le faccio la domanda ma le faccio rispondere dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, quali sono le aziende da considerare ad alto rischio in questo momento? E quindi, insomma, non è sempre vero che l'obbligazione societaria dia una garanzia in assoluto. Allora, risolviamo l'arcano che abbiamo aperto prima della pausa. E ancora Matteo Petri, così le volevo far concludere il discorso che avevamo iniziato su quelle che possono essere ritenute aziende ad alto rischio, dato per scontato, almeno lo speriamo, che un'altra Lehman Brothers nel nostro sistema non la vedremo, però insomma i rischi di aziende molto più piccoli probabilmente ci sono. Allora, quali da questo punto di vista secondo lei sono i settori da monitorare più attentamente? Il settore da monitorare più attentamente è sicuramente quello più rischioso in questo momento, è il settore auto, che è un po', anche se gradualmente sta un po' rientrando, i problemi stanno rientrando con le ristrutturazioni e le aggregazioni che leggiamo tutti i giorni, effettivamente è considerato in questo momento quello più a rischio. Va anche detto che il settore auto... Peraltro rischi, vorrei anche precisare, particolarmente preannunciati, voglio dire, qua nessuna sorpresa dovrebbe arrivare qualora si verificasse. Tant'è vero che i titoli del settore auto hanno già dei rating sotto la tripla B, che è un po' il livello minimo a cui un investitore dovrebbe prendere in considerazione, e quindi oggi la maggior parte dei titoli del settore auto vengono considerati titoli speculativi, anche se poi in questo momento alcuni non lo sono più. Però di fatto, se guardiamo il rating, ancora oggi non hanno il grado di investment grade. No, ho parlato del fattore tempo perché non vorrei che magari qualche risparmiatore avesse la tentazione di comportarsi come si è comportato un anno fa con Alitalia, quando ci venivano date tutte le massime rassicurazioni sul fatto che la compagnia di bandiera venisse salvata in qualche maniera, a prescindere dall'arrivo della nuova cordata, e tutti si sono affrettati a comprare titoli perché c'era la promessa del salvataggio. Il settore auto ha una promessa di salvataggio che dura da 2 anni. In qualche maniera l'industria automobilistica americana viene salvata in queste ore con delle dinamiche piuttosto articolate, però insomma ci sono tra gli italiani molti sottoscrittori di obbligazioni General Motors, di titoli appunto obbligazionari legati alle società automobilistiche. Io direi che, per quanto possono aver perso molto, forse per non andare totalmente in default il proprio investimento, magari, non lo so, adesso un suggerimento esplicito a disfarsene di questi prodotti non mi sento di darlo, però quasi mi sento di darlo. Mazzola, non lo so, lei che ne pensa? Beh, sicuramente guardando fuori uno vede che le macchine ce ne sono tante, quindi allora il problema è sempre anche il grado di concentrazione. Cioè, quello che ci ha insegnato lo scorso anno è che comunque eventi estremi imprevedibili possono succedere. Cioè, il fallimento di Lehman con un rating doppio A meno è avvenuto da un venerdì a un lunedì. Allora, la vera riflessione sul settore corporate, riagganciandoci a quello che dicevamo prima, è probabilmente farlo in modo diversificato. Cioè, esistono prodotti diversificati, esistono fondi che investono in obbligazioni corporate, esistono ETF che investono in modo diversificato, perché qui abbiamo imparato che la sfortuna sembra che ci veda benissimo quando poi colpisce il nostro portafoglio. Allora, le obbligazioni all'Italia, uno poi legge anche le interviste sui giornali ai risparmiatori, dice un eccesso di ricchezza concentrato. Allora, su un singolo emittente, secondo noi, non esiste una regola effettiva, ma uno non dovrebbe investire più del 2, il 3, il 4% della propria ricchezza, perché comunque è un rischio controparte. E allora, proprio in quest'ottica, se uno ha tante obbligazioni corporate, è meglio che faccia una riflessione, specialmente se si tratta di una posizione concentrata. Io vorrei dare soltanto un indicatore che è molto importante. Quando vediamo questi rendimenti, si parla sempre di spread. Lo spread è il rendimento in più rispetto ai titoli esenti da rischio. Quindi dice: l'obbligazione mi rende il 5% e magari il titolo di Stato rende il 2%. Questo 3% è lo spread. Ecco, dal punto di vista matematico, lo spread è la probabilità di fallimento. Cioè, uno, se compra un titolo che rende 3 punti in più del titolo di Stato, deve pensare che il mercato sconta un 3% di probabilità di fallimento su base annua. Ecco, questa è un'indicazione molto utile. Se uno pensa che questo numero sia molto più elevato, se tu pensi che Fiat magari ha un 3% di spread e pensi che possa aver problemi da qui al prossimo anno, allora forse è la scelta per disfarsene, perché poi le vendite in perdita sono sempre molto difficili. E infatti c'è anche questo aspetto emotivo da tenere in considerazione. Allora, altri ascoltatori. Giovanni da Firenze stava aspettando da un po', benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io non parlerò di obbligazioni. Sì. Anche perché a fine febbraio ho investito tutto in azioni. Ho acquistato 7 titoli della borsa italiana. Sì. Di cui 6 producono servizi e uno produce, che va per la maggiore, insomma, produce auto. Sì. Chissà quale mai sarà. Chissà quale mai sarà. No, la prendevo in giro, Giovanni, ovviamente affettuosamente. Cioè. E poi ho stipulato 3 piani di accumulo sostanziosi, molto. Quello che dico vale solo per me, intendiamoci. Sì. E quindi, insomma, lei sta ritornando prepotentemente sul mercato azionario, Giovanni, quindi è confidente. Sì, per forza, mi scusi, perché qui bisogna vedere, oggi è uscito sul sito i bilanci delle aziende della Borsa di Milano. Sì. Sembra un bilancio di guerra. Ma dopo la guerra viene la pace. C'è il boom economico, dice lei, no? Anche se questa è una guerra bella dura, questo giro. Non aspettano il boom, cioè basta un pochino che il PIL sia positivo di uno 0,1 l'anno 21, 0,2 e già le cose cambiano. Giovanni, vorrei dare spazio e in realtà abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, abbiamo solo 2 minuti e non riesco neanche a sentire gli altri ascoltatori che erano pronti e con interventi che già intravedevo sono molto interessanti, però magari un'ultima raccomandazione io su Giovanni, sembra essere pienamente consapevole dell'investimento che ha fatto, però insomma io come dire ribadirei anche le criteri di base della diversificazione per Giovanni. Carlo Mazzola, però lui diceva, parlava di un piano di accumulo, noi parliamo di diversificazione tra titoli e poi il piano di accumulo, provate a vederlo come una diversificazione temporale, perché noi parliamo sempre di non mettere tutte le uova nello stesso paniere. La diversificazione temporale che viene col PAC di cui lui parlava è il fatto di dire vorrei prendere sempre il momento di minimo, ma questo non è possibile prenderlo sempre, faccio una scelta predefinita nel tempo. Però è tutto sul mercato azionario, Giovanni. Questo non lo sappiamo, non ce l'ha detto. Forse magari non era proprio tutti i suoi soldi. Matteo Petri ci aiuta a trarre una conclusione da questa trasmissione? Ma io vorrei solo dire una cosa. In questo momento, che sia il rischio azionario, il rischio dei corporate bond, il rischio è ben remunerato. Come sempre però il rischio va dosato, quindi mi associo nel raccomandare una buona diversificazione, però chi oggi vuole prendersi un po' più di rischio deve anche sapere che probabilmente nei prossimi mesi sarà ben ripagato da questo. Con la dovuta attenzione, con la questo dovuta però va sempre sottolineato. E infatti. Grazie a Matteo Petri, BPM Gestioni, Carlo Mazzola, Norisk. Grazie. Vi rimetto magari insieme in un'altra circostanza, perché è stata una trasmissione molto, molto, molto ricca di spunti e anche molto, molto dinamica, molto, molto divertente questa mattina. Allora, io volevo ringraziare, perché non riesco quasi mai a farlo, oggi rubo 10 secondi, Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, sono le mie assistenti, Pietro Lacorte invece in assistenza tecnica. Salva Danaio torna domani e naturalmente poi non ci saremo esattamente in diretta il 1° maggio, ma ci saranno dei suggerimenti alla lettura, poi domani vi do maggiori dettagli. Intanto buona giornata a tutti.